previsioni del meteo. Lunedì sarà una giornata di soleone. Le temperature oscilleranno fra i 50 e i 56 gradi. Martedì è previsto bufera. Mercoledì ci sarà una grande gelata la mattina. Giovedì siccità. Venerdì maremoto. Sabato riposo. Arrivederci e alla prossima settimana. Ah, che bella giornata di sole. Peccato che piove. Benvenute e benvenuti alla nuova puntata di... Eclettismi spaziali, sudotropicali! Terza stagione, 23esima puntata di Eclettismi spaziali sudotropicali. Siamo qui a Rieti, davanti a questo splendido mare, siamo al Lido di Borbone. Siamo qui per incontrare due ospiti, sono andato a trovarli, uno del luogo, DJ Greto. Un saluto a tutti quelli che mi conoscono, è un piacere stare qui nell'Ethernet, mando un grande abbraccio a tutti i cinghialotti che mi conoscono. Questa è una radio. Siamo qui anche con un altro ospite direttamente dal Molise, dottor Negon. Ciao Negon. Salve, salve, sono dottor Negon. Sono qui per negare l'evidenza, perché quello che vedete non è come vi sembra. Non fa mica caldo. Esatto, perché ancora non l'abbiamo detto, ma l'argomento scottante di questa puntata è... Cosa che non si può più dire, lo chiamavano cambiamento climatico, invece di nessuno ne ha parlato, quello che è stato il riscaldamento globale, cioè il riscaldamento del pianeta, quello che ci sta al mare, a Rieti, non so, forse se vi ricordate com'era, lo chiamava piccola Svizzera, qua a Borbona. DJ Greto ha perso la casa, un'inondazione, ed è qui al bar da allora, non se ne va più, ha messo una tenda per protestare contro questi cambiamenti climatici, ci dica. Anzi, un cambiamento climatico, questo è stato un riscaldamento globale che ha portato lo scioglimento di ghiacciai, che mi ha portato via pure il maiale. Allora è chiaro che sto qui a protestare, ma te pare normale a te che mo sono senza casa, tengo la roulotte e tengo questa qua, che prima facevamo i funghi, facevamo le bestie e mo qua teniamo la sabbia e le telline, che mi fa male la schiena a fare le telline a me. Però ora puoi fare windsurf o altri sport marini, insomma ti devi adattare a questi nuovi tempi. DJ Negon, lei ha scritto diversi articoli sull'argomento e la invitiamo qui perché sappiamo che ha una voce controcorrente. Ma sì, c'è tutta questa meraviglia del mare a Rieti, come se fosse una novità, però già avevamo visto che dai fossili ritrovati sulle colline di Rieti che già c'era il mare qua. Probabilmente non erano gli etruschi, ma forse erano i bruti che stavano in spiaggia e come noi si bevevano una biretta. Sì, lo cervello ti si è bevuto, si è allagato il cervello, mare, saranno stati almeno 10.000 anni che non c'è stato il mare qua, ma vi state rendendo conto di quello che sta succedendo o stiamo facendo la filosofia, stiamo facendo la scolastica qua, cioè ci stiamo rendendo conto veramente che a breve ci sarà soltanto acqua salata da bere, vi state rendendo conto, che se andiamo avanti con questa maniera di inquinamento e dei rifiuti in giro saremo sommersi dalla nostra stessa merda e dopo l'età dell'oro, l'età del bronzo, questa tra l'età dell'immondizia. ascoltato la triste storia di DJ Greto, a noi piace la pluralità. Quindi ascoltiamo Negon, che ci può spiegare per esempio perché questa temperatura di 50 gradi, 56 gradi a Rieti, dobbiamo preoccuparci, non lo so. Guardi, le posso dire che non è vero. Già avevamo visto che solo 2000 anni fa c'era il Lido, che le telline già le facevano gli Etruschi, e poi gli Etruschi si sono estinti per la mancanza di telline. Poi dobbiamo vedere i risvolti positivi. Intanto non si lavora più di giorno, si lavora solo di notte, quindi riposiamo di più. Oltretutto dovremmo riscaldare di meno le case, i condizionatori non funzionano più perché fa troppo caldo, quindi risparmiamo pure energia. A me mi pare veramente che sta pluralità è proprio priva di argomenti, cioè se volemmo parlare delle telline allora ti manderebbe a cogliere le telline, eh? Ti piace soltanto il fatto che tenghi da lavorare, ma a spalare in miniere ti manderebbe, io vi manderebbe a tutti quanti voi sostenitori del modernismo, dell'industrialismo come si chiama, tecnologico. Per me, guarda, forse per me tornerebbe proprio all'età della pietra, ma la pietra in capo ti darebbe. Basta litigare, perché comunque condividiamo la stessa terra. Io per esempio vorrei invitarmi nel mio bunker che ho comprato qui a Rieti, perché comunque penso che prima o poi ci saranno 70 gradi secondo le mie previsioni per il prossimo anno, quindi ecco, io ti va chiudendo lo bunker entrando, va con su bla bla bla che mi siete già rincoglionito, va, andate a camminare sulla sabbia, la terra, che qua non si può coltivare più niente su sta sabbia, giusto le telline che tenete in capo ci sono rimaste, va. milioni di persone con la sua azione. Vi ho detto, l'ho raccontato quello che il Parlamento europeo sta facendo, le norme che abbiamo approvato, l'ultima, quella sulla plastica monouso. Vi ho raccontato anche come attraverso il sistema satellitare combattiamo il cambiamento climatico. Abbiamo parlato un po' dell'Africa, di come il cambiamento climatico provoca la scomparsa dell'agricoltura. Le ho raccontato il mio viaggio in Niger con il deserto alle porte della città. Abbiamo parlato di quello che si può fare insieme, più importante, insomma, ho parlato un po' come, non so se un padre o come un nonno, vedendo una ragazza che crede deve essere aiutata a combattere le sue battaglie. Prego? No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche stribati per Fadina, come antifurto, per esempio. Chiedendo perché questo gelato è sparito. Vedi, Susi? Non sono gli stranieri colpevoli, ma il riscaldamento del globo. Yabu? Sì. I nostri politici più affascinanti hanno trovato un modo economico dell'ultima ora per combattere il riscaldamento del sole. Dal 2063 viene semplicemente gettato ogni tanto nell'oceano un cubo di ghiaccio gigante. Proprio come fa il mio papà nel suo drink ogni mattina, solo che poi diventa pazzo. Ovviamente, questo risolve il problema una volta per tutte. Ma... una volta per tutte! Thank you. Allora, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo in studio una personalità di spicco della nostra società, filosofo, inventore, influencer, ed è con orgoglio che vi presento Lucio da Scarpe. Signor Lucio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. È venuto solo? È venuto solo. Vabbè, meglio così. Signor Lucio, cosa si può fare secondo lei contro il cambiamento climatico? Allora, innanzitutto, perché contro? Perché contro? Bisogna essere sempre contro qualcosa. Cerchiamo di prendere l'opportunità di questo cambiamento. In fondo tutti cambiamo. Lei è uguale quando era piccolo? No, siamo tutti cambiati. E allora io ho pensato, visto che sono un filosofo e non sono contro niente, cerchiamo di sfruttare la maniera per poter usufruire di questo cambiamento. Per esempio, io ho creato delle invenzioni, ho creato l'ombrello che resiste al vento, è un ombrello speciale che in caso di forte folata di vento tu puoi levare il telo, rimane lo scheletro e con quell'ombrello puoi andare in giro. Oppure chiunque ha dentro casa un semplice ventilatore. Ah, certo. Il ventilatore serve per fare freddo, sì. Per rinfrescare l'aria, sì. Ma mettendo le mie speciali candele, accendendo le candele, l'aria invece di rinfrescarsi si riscalderà. L'unico problema è riuscire a trovare il metodo per far tenere le candele accese davanti al ventilatore, ma io... Ma questo è risolvibile. Assolutamente, io sono convinto che riuscirò a trovare la soluzione. Molto interessante, molto interessante. Vedo che lei ha veramente una mente geniale. Grazie. Ora la salutiamo. Grazie. Salutiamo. Grazie per lo spazio che mi avete dato. Prego, prego, prego. Ci vediamo presto, presto. Non c'è problema. Dopo l'era industriale da noi ci sono stati i grandi processi. Quali processi? Chi fabbricava prodotti nocivi per la salute degli umani, degli animali e delle piante è stato accusato di genocidio e crimini contro il pianeta. Ah sì? E chi? Le industrie agroalimentari e chimiche, i fabbricanti di armi, tabacco e alcol, le industrie farmaceutiche e nucleari, i costruttori di automobili, gli architetti, medici e politici che si erano arricchiti lasciando fare. Migliaia, eh? È stata la guerra civile. E poi il boicottaggio. Boicottaggio? Tutto quello che era stato nocivo per la salute non si comprava più, o si buttava. Fu l'arma vincente, senza vendite e niente potere. L'esercito e la polizia erano impotenti. Com'è stata chiamata quell'epoca? Yeah. Recenti studi hanno dimostrato che l'aumento delle temperature, dovuto alla crescente crisi climatica, sta già causando la scomparsa di alcuni alimenti. Nei prossimi anni, dunque, acqua e cibo potrebbero essere merci di scambio più preziose del petrolio. Comincia adesso a fare la tua parte. Vuoi mangiare? Non farlo. Vuoi bere? Non farlo. Il cibo, inoltre, contiene calorie e mette caldo. Stay fresh! Salva il pianeta! Stringi il tuo stomaco! Esistono problemi di cambio climatico, esistono problemi di inquinamento, esistono problemi di ridisegno dell'industria nel mondo. Allora, il cambio climatico c'è sempre stato. Uno può chiedersi perché Groenlandia si chiama così. Era verde ed è diventata grigia. Il cambio climatico è parte della storia del pianeta e quindi dell'umanità. Riusciti a finalmente avere una risposta dall'intelligenza artificiale, la più complessa, quantistica, e ci ha detto: uomo, sei nato per amare, anche se spesso hai cercato, come Icaro, di volare troppo in alto, è troppo solo. Negativa. Non lo so, io ne ho piene le balle. Comunque è un'esperienza negativa. Senz'altro diciamo che è positiva, perché è formativa come esperienza negativa. È l'unica cosa positiva che gli riconosco. Che ha dato al signore là dentro? Che affare rettangolare? Gli ha dato un affare rettangolare. Ma certo, ho pagato la carne. Ah, era moneta. Pagate in questo modo. Voglio dire, per tutto, per avere qualunque cosa. Senza moneta non vi danno niente. We'll be right back. oggi da Punta Rocca si è staccato un blocco di ghiaccio gigantesco, vedete è tutto il grigio là, quello è sassi e ghiaccio, è caduto, è andato giù fin sotto al pian dei Fiacconi, ha travolto un sacco di persone. Il ghiacciaio da questo momento è chiuso, nessuno può più salire per il ghiacciaio ufficialmente è chiuso perché altri blocchi di ghiaccio potrebbero staccarsi, quindi nessuno dico può più salire per il ghiacciaio. Perché oggi sono morte tante persone purtroppo. Quindi il ghiacciaio è ufficialmente chiuso a tutti. Aiuto, aiuto! Scusate, ho avuto un attacco di ecoansia, di ecopanico. L'importante è sapere quando arriva. Bah, non ce la faccio più, io non ce la faccio più a sentire sempre tutte queste notizie. Ho l'ansia climatica. Penso sempre al cambiamento climatico, antropogenico, al riscaldamento globale, all'innalzamento dei mari, all'incidenza dei disastri naturali, agli eventi meteorologici estremi. È un continuo, non ce la faccio più, ho l'ansia, voglio andare in un centro di recupero. Mi sembra che tutto vada in rovina, che non abbiamo più tempo. Guarda, è inutile venire l'ansia. Respira, senti dov'è l'ansia e lanciala via, perché Carlo Magno, mentre attraversava le Alpi, non aveva incontrato nessun ghiacciaio, li attraversò liberamente. Quindi le stagioni passano, non è vero nulla. Tutto è permesso. Senti, secondo me state fulminati tutte e due, eh? Evito il commento a quello che si è detto perché secondo me manco te si è capito. Te stai con l'ansia che ti sta mangiando. Io voglio dire una cosa, raga. Sto soffrendo con voi, va bene? Per questo vostro disagio, per questa vostra situazione. Vi voglio invitare in un villaggio che abbiamo costruito dove potrete tornare a essere umani, eh? Dove potrete ritrovare voi stessi, il vostro contatto con la madre terra che siete perso. Ormai siete persi. Un villaggio dove la tecnologia non esiste, come una volta, raccogliendo e cacciando, senza regole, senza lavoro, senza chi ci sta sopra, chi ci comanda, senza inflazione, senza rifiuti, compatibili, biocompatibili. È davvero un altro mondo possibile, al di fuori di questi pezzi di plastica in cui viviamo. Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos acudir. La madre tierra, militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo lenca, a Río Blanco, al Copín, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias. Raggio di sole ha fatto tutta questa strada dal sole per venire a trovare la Terra. Salve Terra, ho fatto un salto per illuminarti la giornata. Fermo dove sei, raggio di sole. Siamo i gas dell'effetto serra e tu non andrai proprio da nessuna parte. Non mi fate troppo male. In men che non si dica, la Terra è circondata da raggi di sole. I loro corpi in decomposizione riscaldano l'atmosfera. Siamo dei gas dell'effetto serra. tell me why you like to go walk. Every time walk. You want a small box to die for you. Innocent souls are killed every day. Tell me why you like walk. You want another guy to stop a bullet for you. But you never, never, never, never, never, never like to stop a bullet for another guy. Giunti alla fine di questa puntata, dopo tutte queste belle parole siamo cambiati pure noi, mi è passata questa ecoansia che mi attanagliava la vita, non riuscivo più a vedere un futuro e ora invece vedo un futuro davanti a noi. Egon, ti vedo con un sorriso che prima non avevi, prima eri molto molto cupo. Cosa? Perché? Che è cambiato in te? Ho capito tutto. È vero che abbiamo distrutto il pianeta e che dobbiamo combattere per pulirlo e per lasciarlo per i nostri nipoti. Grazie a Greto, a DJ Greto, le sue parole mi hanno colpito nel profondo. Ragazzi, io non ce lo so quello che sta succedendo, ma mi sento strano, ve lo voglio dire. Cioè, mi è appena aggiunta un vocale. C'è stato che si è ritirato al mare in maniera incredibile, si è liberato da un centinaio di metri di spiaggia. Mio nipote non si è trovato le ostriche dentro, se le ha venne giù al paese, al ristorante, facendo il calcolo semplice sommario di quando siamo fatto con un chilo di ostriche. Praticamente con tutte quelle che siamo trovato stiamo bene fino alla fine del mondo. E quindi ecco, forse anch'io volevo dire che sto riscaldamento mi comincia a piacere, ecco. Sul fatto che sto sempre in giavatte, che vado in giro sempre con il pantaloncino, mi sento insomma che mi piace, mi comincia a piacere. Certo, è strano che sto ritiro dell'acqua, pure mo qua che ha fatto tutto, che si è ritirato, sti uccelli pure che volano, è strano, mi sento strano. Scusate se vi girate, vedo una cosa strana, credo che sia un'onda molto grande e che ragazzi o santa madonna, ma che cazzo è questo? C'era l'orto, prendete la tavola ragazzi, andiamo a surfare, è bellissimo. Cazzo, stai muovendo la montagna di l'onda. Aiuto oddio, porca splash fioschis. That he has been serving for just the proper vocation. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Jersey will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. cantare. Eclettismi spaziali sono tropicali. Of a man bear pig. Well, there's a lot of smart people saying man bear pig is real. Yeah, and a lot of smarter people saying it isn't, okay? What you need to understand, Susan, is that everyone has an agenda, okay? Everyone wants to use the fear of a man bear pig to get what they want. So they throw around bad science, bad taxidermy, and people coming out of the woodwork are now experts on the subject. Sweetheart, you can't just let people tell you that if you don't believe in man bear pigs and you don't care about the world. It is real. You want to believe it's real, you go right on ahead, Susan. No, it's right there. It's right there behind you. Per amarti, e tu fiorivi, sfiorivano.